Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Innanzitutto la mail alla quale scrivere, mi raccomando, segnalando cose che non siano personali. Ultimamente sto ricevendo in redazione decine e decine di mail alle quali non rispondo e me ne scuso, non lo faccio per maleducazione, ma perché sono temi veramente troppo personali, non posso affrontarli. Colgo quindi l'occasione per rispondere attraverso la radio dicendo quello che ho appena detto. Mi raccomando, casi più generali che possano coinvolgere una moltitudine di persone. Ed è il caso della lettera che ci è stata inviata da Gianni Pollastri, un nostro radioascoltatore della provincia di Modena, segnatamente di Campo Galliano. Passando sull'autostrada troverete, vedrete anche l'uscita. Allora, che cosa accade? Accade a lui quello che accade a moltissimi radioascoltatori che sono poi utenti, clienti, cittadini, vale a dire combattere quotidianamente con il rumore. Figuriamoci poi su un'autostrada così trafficata come l'auto Brennero, con la quale ha la fortuna o la sfortuna di imbattersi il nostro radioascoltatore. Che cosa accade segnatamente? Sono 10 anni, anzi mi correggo, sono quasi 13 anni che cerca di porre un rimedio al rumore devastante che attraversa anche la sua zona, ma a quanto pare risultati pochi. Intanto, per capirne di più, abbiamo proprio sentito il nostro radioascoltatore. Buongiorno Pollastri. Buongiorno. Allora, aggiungo qualcosa un po', diciamo così, di più approfondito per far capire ai nostri radioascoltatori in che tipo di guai lei oggi si trova. Sì, io posso cominciare con una lettera che il sindaco aveva inviato nel 2004, aspettate adesso, nel 2004 all'Auto Brennero, chiedendo informazioni sulla barriera antirumore della località Gozzara dove abito io. Sì. Era già in progetto dal 97 assieme ad altri tre. E qua è successo che l'Auto Brennero ha risposto al sindaco, solo al sindaco, dicendo che comunque un loro tecnico era stato a casa mia per 3 volte nel 2003. Ecco, io qui la fermerei un secondo, perché lei ha questa lettera molto dettagliata, devo dire molto puntuale, riporta non soltanto dei rilievi, diciamo così, sull'inquinamento acustico che riguarda la sua zona, ovviamente non solo casa sua ma una località molto più ampia, ma si attende anche una risposta dall'Auto Brennero, che invece non viene, o se viene, viene in maniera, come dire, abbastanza curiosa, perché dicono che visitano casa sua, ma casa sua appare disabitata, senza nome, esatto, cognome, campanello. Insomma, e lei è un fantasma allora, Pollastri? Sì, infatti sembra così. E mentre invece così non è. Io vorrei intanto dire ai nostri radioascoltatori, chi mi segue da oltre un anno sa il modo in cui opero, io chiamo sempre tutte le parti in causa, perché non ci sono tesi precostituite, c'è soltanto un confronto dialettico e democratico, va di moda dire di questi tempi, tra persone civili. Il civile Auto Brennero, o la civile Auto Brennero SPA, non so come definirla, ha rifiutato il confronto. Dico rifiutato perché noi l'abbiamo sentita, cercata, tampinata, non so per quanto giorni attraverso la redazione, ma poi alla fine il dottor Bassetti, con il quale abbiamo interloquito più di una volta, ha detto che la società preferisce non intervenire. Personalmente ritengo che chi è assente ha quasi sempre torto, dico quasi perché diamo il beneficio dell'inventario, sarebbe stato curioso sapere e conoscere il loro punto di vista. Ce ne faremo una ragione, continueremo a vivere, credo, lo stesso, ed è per questo che io passo la parola al sindaco di Campo Galliano, la dottoressa Stefania Zanni. Buongiorno Zanni. Buongiorno. Allora, come lei ha potuto sentire, il suo concittadino la chiama in causa, dice il sindaco ha scritto, l'Auto Brennero ha risposto soltanto a lei, però mi pare di capire che di fatto questa barriera antirumore non ci sia. Ci dia la sua interpretazione, sindaco. In non do la mia interpretazione, ma do l'esame dei fatti, certo, in base a quelle che conosco io. Certo. Tra altre cose, il 2004 è stata una delle lettere, ma non è stata né la prima né l'ultima. È dal 96 che si sta lavorando assieme al signor Pollarsi proprio per risolvere questo problema. Proprio a me è piaciuta molto la sua premessa, cioè il fatto che non deve essere un problema personale, proprio perché poi come amministrazione logicamente dobbiamo vedere tutto il contesto in cui ci muoviamo. Il problema delle barriere ce l'ha il signor Pollarsi, ma ce l'hanno anche tanti altri cittadini. Indubbiamente, indubbiamente. Il mio ruolo qua non è assolutamente difendere l'autostrada del Brennero, mi dispiace che non abbiano voluto partecipare a questo colloquio telefonico. E con loro però io devo dire che per quello che riguarda i rapporti e i momenti di confronto sono sempre abbastanza puntuali e tendono anche sempre a darci delle risposte. Quindi io non voglio giustificarli, non so il perché non abbiano deciso, non mi tocca neanche rispondere per loro conto. Rispondo per quello che ci riguarda. Per quello che ci riguarda, io sono diventata sindaco nel 2004 e la lettera a cui fa riferimento Pollarsi effettivamente l'avevo firmata io stessa, rispetto a capire qual era la situazione e soprattutto qual era nel piano di recupero per quello che riguarda i problemi di rumore dell'autostrada del Brennero, a quale posizione era collocata questa situazione. Noi a Campo Gagliano, sempre sull'autostrada del Brennero, ne abbiamo presenti anche delle altre e quindi volevamo far capire, io poi appena arrivato volevo capire come eravamo messi. La risposta è stata appunto quella a cui è seguito e effettivamente è stata mandata solo al sindaco la lettera del 2004 perché ero stata io a inviare la richiesta all'autostrada del Brennero, quindi è logico che la risposta sia stata inviata. Sì, giunta a lei, certo. Ecco, però sì, di esatto. Fatto sono 5 anni, forse 5 anni sono tanti, sindaco, per dare una risposta, non crede? Ma io non è che dopo non ci siamo più né sentiti né visti con il signor Pollarsi, c'è dal 2004 al 2008 minimo altre 6 o 7 corrispondenze con l'autostrada del Brennero a cui noi facciamo richieste, loro ci danno risposte. Ecco, ma l'ultima l'ultima risposta è del 1 ottobre 2008 dell'autostrada del Brennero. Le scrivono il 1 ottobre del 2008? Adesso, vengono rimandate quelle che sono tutte le decisioni, scelte. Faccio una breve premessa: da quando è iniziata tutta la faccenda a adesso c'è di mezzo anche una normativa che si è modificata e che mette da maggior rilievo rispetto a prima, da maggior peso rispetto a prima quelle che sono le densità abitative, oltre ai siti che logicamente hanno bisogno di essere salvaguardati perché hanno i limiti che vengono superati, da maggiore rilievo a quelle che sono la densità abitativa. Quindi qui ci troveremo di fronte avanti di un passo chi ha maggiore densità abitativa. Quindi qui ci troviamo di fronte a poche case probabilmente e quindi magari l'Auto Brennero preferisce privilegiare altre aree. Non è che preferisce privilegiare, il piano di barriere antirumore sono state fatte in base a un piano regionale, a una legge, a una normativa nazionale e il parere sul piano tra l'altro viene rilasciato dalla Regione Emilia-Romagna. Pareva a cui noi abbiamo dato, tra l'altro fatto alcune osservazioni, dove abbiamo proprio detto che per noi una delle priorità è, oltre all'abitato, non solo alcune case, ma il centro abitato di Panzano, e quindi insomma, oltre al centro abitato di Panzano diamo la priorità proprio al caso del signor Pollarsi, ecco. Che non è Pollarsi ma è Gazzara, come giustamente ecco, lui fa notare. Esattamente, allora io la interrompo un attimo, sindaco, perché vorrei tornare al nostro radioascoltatore. Allora, noi stiamo analizzando un caso che riguarda un pugno di case, o due pugni di case, o tre pugni di case, non so quante, ma che rappresenta in realtà, purtroppo, ahimè, la lotta quotidiana che milioni di cittadini italiani fanno contro il rumore. Allora le chiedo, Pollarsi, io non ho alcun motivo di dubitare della correttezza di Auto Brennero, anche se, ripeto, non capisco perché non si sia presentata. Non ho motivo di dubitare che l'amministrazione comunale abbia fatto tutti i passi necessari e che quindi stia seguendo la cosa. Però le chiedo, come vive un cittadino questa decisione, diciamo così, di maggiore, minore densità? Suppongo che il fastidio del rumore sia uguale sia che si è singoli sia se si vive in una comunità di 100 milioni di persone, o sbaglio? Direi che sia proprio così, Qua si sta tappati in casa per tutto il giorno e per tutta notte, insomma, per tutto l'anno, perché in inverno c'è il riscaldamento e poi dopo si parte con il condizionatore e si è sempre chiuso in casa, così si è tappati in casa. Perché non riuscite proprio, come dire, ad avere una vita tranquilla, perché certamente quel tratto autostradale non è certamente... Sì, no, ma a me passa vicino a casa proprio. E quindi è una cosa... Io ce l'ho praticamente in cortile. Benissimo, allora io ringrazio Pollassi per il suo intervento. Chiedo al sindaco Stefania Zanni quali saranno le prossime mosse a questo punto, sindaco? Ma noi, oltre a quelle che sono stati colloqui formali, quindi lo scambio di corrispondenze, diciamo così, che è testimoniabile, logicamente, come dicevo prima, con l'autobrino abbiamo anche un rapporto abbastanza buono di collaborazione. E quello che abbiamo posto, tra l'altro, che stiamo per affrontare nel prossimo anno, sarà proprio la realizzazione della terza corsia. E da parte nostra ci sarà una rigidità proprio nel pretendere, non tanto come si dice nell'ultima lettera in cui si fa riferimento al 2016 come tempo di realizzazione, ma pretendere proprio anche a causa del fatto che la terza corsia porterà un aumento del traffico, che vengono realizzate immediatamente tutte le barriere presenti nel nostro territorio. Benissimo. Nel 2009, volevo solo, prego, scusi, perché lei dice sì, nel 2009-2010 verranno realizzate proprio quelle barriere di Panzano, che ripeto sono barriere a protezione del centro abitato, sì, e altre due o tre barriere molto importanti per il nostro territorio. Benissimo. Avevamo più volte sollecitato a inserire anche quella di Pollastri, poi più che sollecitare e scrivere non... A volte certamente, non molti certamente, anni, certamente. Benissimo, io ringrazio il sindaco di Campo Galliano Zanni, in regia Giorgio Matei, in studio Laura Fagina, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.